tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La replica del ministro Padoan sulla crescita: l'1% è ambizioso ma realizzabile, deficit in linea con il consolidamento dei conti, aggiunge. Il premio Nobel per la fisica va a 3 scienziati britannici impegnati nello studio della materia, le loro ricerche alla base, tra l'altro, dei superconduttori. Il Papa è in visita a sorpresa ad Amatrice. Vi sono vicino e prego per voi, dice alla popolazione colpita dal sisma. In Siria il regime avanza nel cuore di Aleppo. La tregua è violata 49 volte in 24 ore ed è rottura tra Stati Uniti e Russia. Nuova ondata di sbarchi in Sicilia e nuove vittime in mare. 11 migranti perdono la vita a ovest di Tripoli. Riflettori puntati sulla sicurezza a Roma dopo un nuovo stupro ai danni di una turista australiana. Sono già liberi nel loro paese i 5 macedoni espulsi dall'Italia perché considerati vicini allo jihadismo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Se ci volete scrivere, i contatti sono i soliti: effettogiorno@radio24.it oppure il 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp durante la trasmissione. In apertura dunque l'economia, o meglio la politica economica, dopo l'intervento di Banca d'Italia. Oggi parla il ministro dell'economia Padoan sul DEF, il punto dalla Camera dei Deputati con Teresa Trillo. Teresa, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno Simone. L'audizione del ministro di fronte alla Commissione Bilancio è ancora in corso. Padoan ha difeso stime e manovra del governo che sono state criticate ieri da Banca Italia e dall'Ufficio Bilancio della Camera. Ma sentiamo cosa ha detto il ministro. L'effetto netto della manovra per il 2017 viene stimato in circa 7 miliardi di euro di maggiore ricchezza prodotta, lo 0,4%. Il valore programmatico del PIL per il 2017 è quindi atteso in crescita dell'1%. Si tratta di un obiettivo ottimistico secondo alcuni, ambizioso secondo altri, ma anche realizzabile. Questa ambizione è sostenuta in modo concreto da una manovra che dà una spinta alla crescita. Il PIL programmatico non è una scommessa, riflette la valutazione dell'effetto che la manovra produce sul prodotto. Sì, e il ministro ha aggiunto che la manovra è stata fatta con cura, come evocato da BCE e Banca Italia. In commissione non sono mancate le critiche, ha parlato l'opposizione. Brunetta ha detto che c'è il rischio di una bocciatura dall'ufficio parlamentare del bilancio e ha chiesto di rivedere le stime programmatiche per il prossimo anno, perché il governo, oppure il governo si deve assumere il possibile conflitto con l'Unione Europea, che certo non gioverà al paese. E dalla Camera è tutto per il momento, a te la linea. Grazie a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Un altro fronte sul quale il governo sarà inevitabilmente impegnato è quello delle banche, alla luce evidentemente di quello che sta succedendo in Italia e di quello che sta succedendo in Germania. Proprio tutto questo è stato al centro, tra l'altro, di un vertice ieri. Come vanno le cose oggi sui mercati e che cosa si dice su Deutsche Bank? Lo chiediamo a Deborah Rosciani. Deborah, buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi. Allora, intanto, per quello che riguarda l'andamento del titolo in Germania, questa mattina mostrava un leggero recupero, poi è tornato a scendere, quindi ancora totale incertezza sia sul fatto che riesca a risolvere la controversia americana riducendo la perdita combinata appunto dalle autorità statunitensi, e poi sulla necessità di fare un aumento di capitale, intervento dello Stato. Ancora grande nebbia sul fronte Deutsche Bank, anche se oggi l'istituto tedesco guadagna 0,5 punto percentuale. Ricordiamo che ieri era chiuso per festività. Molto più brillante in Europa oggi è Londra, che guadagna l'1,59%, listino sostenuto dai titoli, dalle società che esportano molto, perché la sterlina è precipitata di nuovo al minimo storico da oltre 30 anni sul dollaro e viaggia ai minimi da 5 anni sull'euro. Milano, l'unica piazza che invece tentenna molto questa mattina nel vecchio continente, adesso il FTSE MIB è sulla parità e naturalmente tutti i titoli bancari scendono. Soffrono in particolar modo intanto la Popolare di Milano e il Banco Popolare. Le due banche hanno le assemblee degli azionisti il 15 ottobre, chiamate ad approvare la fusione fra i due istituti, ma questa mattina l'amministratore delegato della BPM Giuseppe Castagna, in un'intervista al Sole 24 ore, ha detto che occorre fare presto, perché altrimenti la banca, se non va avanti con l'aggregazione con il Banco Popolare, è a chiaro rischio scalata. Ancora molto deboli le Monte dei Paschi, c'è la proroga di 3 mesi di divieto alle vendite allo scoperto, e poi oggi perde terreno anche Unicredit, bocciata da alcune case di investimento. Quindi ancora attenzione su tutto il settore finanziario, mentre oggi crescono a Piazza Affari gran parte dei titoli del comparto industriale. Direi che per il momento, Simone, è tutto. E ti ringrazio, grazie dunque a Deborah Rosciani. torneremo sui mercati come sempre nello spazio dedicato alle 13.30. Il fronte politico ci porta anche oggi a parlare dei 5 Stelle. Oggi Grillo incontra i parlamentari, mentre permane qualche tensione per quel che riguarda la Giunta di Roma, e siamo all'indomani dell'addio di Pizzarotti. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Nel giorno del 7° compleanno del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo e Davide Casaleggio riuniscono i deputati a Roma, qui a Montecitorio, colloqui a scaglioni, a porte chiuse, mentre Grillo sul blog ricorda l'esordio nel giorno di San Francesco del 2009, quando insieme a Gian Roberto presentammo il programma, dice, al Teatro Smeraldo di Milano. Oggi siamo qui più forti e uniti che mai, ma invece è ancora polemica per l'addio di Federico Pizzarotti. Il sindaco di Parma critica la frase di Grillo sui 10 minuti di celebrità, ma esclude comunque alleanze con il PD e osserva che la percentuale del movimento resta alta perché dall'altra parte c'è il vuoto spinto. Sul fronte romano Grillo non incontrerà, almeno per il momento, la sindaca Virginia Raggi, mentre l'assessore all'ambiente Paola Muraro non ha intenzione di dimettersi. La sindaca non mi ha chiesto un passo indietro, dice, ho il suo pieno sostegno, continua a lavorare per Roma. Invece voci danno i vertici del movimento alla ricerca già di un sostituto e di una exit strategy proprio su Muraro. A te Simone. Grazie ad Elisabetta Fiorito, mentre emergono nuovi dettagli sulle inchieste che toccano anche la Muraro. Di questo ci parla oggi Daniele Biacchessi. Mentre il Partito Democratico e il 5 Stelle si scambiano querele per essere stati in modo reciproco associati a Mafia Capitale, proseguono le indagini, quelle vere, sulle consulenze all'AMA. E tra le carte della Procura di Roma spuntano i nomi di Franco Panzieroni, l'ex amministratore delegato della municipalizzata dei rifiuti, e l'ex direttore generale Giovanni Fiscon, entrambi sotto processo nell'aula bunker di Rebibbia per Mafia Capitale, e Paola Muraro, oggi al vertice dell'assessorato all'ambiente. I magistrati lavorano in queste ore su 7 consulenze annuali concesse da Panzieroni e Fiscon alla Muraro, salite fino a 500.000 euro. L'ulteriore nodo che la procura vuole sciogliere è legato alla funzione di Paola Muraro in AMA. Gli inquirenti vogliono capire se fosse di fatto una dirigente, anche se formalmente comparisse come una comune consulente, e se con questa qualifica le fosse stato permesso di percepire dunque più soldi degli stessi funzionari della municipalizzata. Fin qui lo stato delle indagini che vanno il suo corso e di cui dovremo rispettare gli sviluppi. Ma la domanda politica resta un'altra. È ancora opportuna la permanenza di Paola Muraro alla guida del suo assessorato nella nuova giunta a 5 Stelle? Così dunque Daniele Biacchessi. Ora siamo alla visita a sorpresa del Papa ad Amatrice. È arrivato ad Amatrice di buon'ora a bordo di un'utilitaria. La prima tappa di Francesco è stata la scuola prefabbricata ai margini della città. I bambini delle materne e delle elementari e i ragazzi delle medie lo stavano aspettando. Il Papa ha raccolto in dono i loro disegni e ha ascoltato le loro storie. Più volte Francesco aveva manifestato l'intenzione di visitare i terremotati, ma in forma privata, da sacerdote e da vescovo. E oggi a sorpresa il viaggio. Non sono venuto prima, ha spiegato il Papa, per non creare problemi, non volevo dare fastidio, vi sono vicino e prego per voi. E in silenzio, nella zona rossa, Francesco ha pregato, da solo, tra le macerie. Alle popolazioni colpite dal sisma, l'incoraggiamento. Dobbiamo andare avanti, c'è un futuro. Aiutatevi l'un l'altro. E poi il grazie ai vigili del fuoco. Infine le tappe ad Accumoli ed Arquata del Tronto, le altre località provate dal sisma. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al Nobel di oggi, quello per la fisica. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2016 Nobel Prize in Physics with one half to David J. Thouless. Allora, eccoli qua. David J. Thouless, Duncan Haldane, Michael Kosterlitz. Sono 3 scienziati britannici che però lavorano negli Stati Uniti. Ci facciamo aiutare da Maurizio Melis per capire che cosa diavolo abbiano scoperto. Maurizio, eccoci. Allora, ci proviamo perché qui siamo decisamente dentro a materia da addetti ai lavori. Però insomma c'è un famoso fisico che si chiamava Pauli, uno dei più grandi del Novecento, che una volta disse che Dio fa i volumi mentre le superfici le fa il diavolo. Questo per dire quanto era difficile spiegare cosa succede sulla superficie degli oggetti. Se poi questi oggetti sono molto sottili e quindi tutta superficie e niente volume, le cose diventano ancora più strane e cominciano anche ad emergere questi comportamenti assolutamente sorprendenti di questa sorta di Flatlandia, sì. Si dice così. Per esempio, siamo tutti abituati all'acqua, no? Che diventa da liquida ghiaccio. Ecco, quando si prendono degli strati molto sottili di materiale, soprattutto a temperature molto basse, succede che vengono fuori degli stati della materia che normalmente non esistono e che possono anche avere... Cioè non è il congelamento ma qualcosa di completamente qualcosa diverso. Succede qualcosa di diverso e a volte saltano fuori delle robe sorprendenti. Improvvisamente quella roba lì diventa magnetica oppure si mette a condurre elettricità mentre prima non lo faceva. Ecco, negli anni 80 questi tre scienziati hanno usato una branca della matematica che si chiama topologia per spiegare buona parte di questi... E cos'è la topologia? Allora, appunto, una branca della matematica che serve in pratica a studiare alcune proprietà molto generali della forma degli oggetti, cioè quelle che sopravvivono quando voi questi oggetti, non so, li stirate, li allungate, purché non li buchiate o non li strappiate. Per esempio, una tazza è del tutto equivalente ad un anello per la topologia. Ecco. Tutta questa roba suonerà sì. Super astratta, naturalmente, sì. No? Allora, facciamo una cosa, Maurizio. Ti chiedo, in ultimo, di dirci qualche esempio di a che cosa ha portato ecco, questa ricerca, che è una ricerca di base, che però porta a, come ecco, dire, a degli effetti pratici. Oltre ad avere appunto aggiunto un tassello veramente importante di conoscenza, questi studi, per esempio, saranno utili a sviluppare nuovi materiali, a sviluppare nuovi tipi di elettronica, tra cui probabilmente anche i famosi computer quantistici, da cui abbiamo, insomma, molte aspettative. E grazie a Maurizio Melis per questi chiarimenti. Speriamo di avervelo chiarito abbastanza, insomma, che cosa. Il compito era arduo. Il compito era arduo, però Maurizio Melis mi sembra che l'abbia fatto nella maniera migliore. Veniamo all'estero. Mentre proseguono i bombardamenti in Siria, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha cominciato a discutere di una possibile risoluzione per chiedere a Russia e Stati Uniti una tregua ad Aleppo. Intanto la tregua, Mosca ha detto che è stata violata 49 volte in 24 ore. Mosca e Washington si rimpallano le responsabilità e hanno interrotto tutti i negoziati. L'analisi è di Alberto Negri. Chi parla di guerra fredda tra Mosca e Washington sulla Siria sbaglia indirizzo. La guerra è calda, non fredda. I russi da settembre 2015 sono impegnati con l'aviazione sul terreno a fianco di Assad. Gli Stati Uniti hanno bombardato recentemente postazioni dell'esercito di Damasco e addestrano una parte delle forze ribelli che combattono ad Aleppo, dove sono schierate le milizie di al-Nusra affiliata ad al-Qaeda. Questo è un campo di battaglia dove sono coinvolti i turchi, che intendono contenere le forze curde, e anche gli iraniani, che sostengono da sempre il loro alleato storico Bashar Assad. Parlare di guerra fredda quindi non ha senso. La tregua è fallita e si continuerà a combattere fino a quando non ci sarà un accordo sulla spartizione delle zone di influenza. Putin sta cercando di avvantaggiarsi sulla debolezza americana prima del voto per la Casa Bianca. Nella lista delle recriminazioni sono andate a finire tutte le proteste di Mosca nei confronti degli Stati Uniti, dall'espansione della NATO nei paesi dell'Est Europa alle interferenze che il Cremlino considera pesanti e inaccettabili nella politica ucraina. Una svolta potrebbe avvenire il 10 ottobre. Quel giorno Putin incontrerà ad Ankara il presidente turco Erdogan. Sul tavolo c'è la questione siriana, ma anche la ripresa dei lavori sul gasdotto Nord Stream. Quella di Aleppo è una battaglia dove gli interessi strategici ed economici si intersecano sulla pelle dei siriani. E violenze ci sono state anche in Afghanistan. Proseguono aspri gli scontri a Kunduz City, il capoluogo dell'omonima provincia settentrionale afghana, tra un comando di talebani che cerca di impadronirsi della città e i reparti delle forze di sicurezza. Ieri Kunduz City ha rischiato di cadere in mano agli insorti, ma l'arrivo di rinforzi e la decisione del vicepresidente, il generale Rashid Dostum, di assumere personalmente la guida della controffensiva, supervisionata dagli USA, hanno costretto i talebani ad arretrare. Secondo fonti locali, ai combattimenti partecipano guerriglieri provenienti da tre province vicine. L'attacco dei talebani a Kunduz City, nel giorno in cui a Bruxelles si tiene la conferenza internazionale sull'Afghanistan, copresieduta dal presidente afghano Ashraf Ghani e dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Complessivamente, a 15 anni dall'inizio della guerra contro i terroristi islamisti, i talebani occupano un terzo dei 101 distretti dell'Afghanistan, ma nessuna capitale provinciale. Nel paese restano circa 10.000 soldati statunitensi e 5.000 degli alleati, compresa l'Italia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È ancora una giornata di sbarchi in Sicilia. Il mare calmo, le condizioni meteorologiche favorevoli e così si intensificano le traversate dalle coste africane e insieme alle traversate nuove vittime. Le guardiacoste libiche poco fa hanno reso noto che 11 migranti, 9 donne e 2 bambini, sono annegati dopo il naufragio di un barcone diretto in Europa e avvenuto ieri a ovest di Tripoli. A bordo del barcone si trovavano oltre 150 persone, non vi sarebbe alcun disperso. Morti che si aggiungono a quelle 9 contate sempre ieri nel canale di Sicilia. I soccorritori però sono riusciti a trarre in salvo 6.000 migranti a bordo di 39 imbarcazioni, mentre 52 pakistani sono approdati all'alba di oggi sull'isola di Gallipoli, 57 algerini nel sud della Sardegna. Previsto oggi ad Augusta l'arrivo di una nave della Marina Militare con a bordo oltre 700 profughi. Tutto questo all'indomani della giornata della memoria per le vittime dell'immigrazione, proclamata nella data del tragico naufragio di 3 anni fa a poche miglia da Lampedusa, mentre dai vescovi arriva un duro monito all'Europa, alla quale si chiede un ruolo più incisivo. Quella di oggi, dice Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della CEI, è un'Europa cieca e debole che continua ad erigere muri, e le morti commemorate ieri sono uno schiaffo alla democrazia europea. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi, come sempre, inizieremo il nostro giro per l'Italia. E la prima tappa del nostro giro per l'Italia sarà Roma, al centro di tante attenzioni in questo periodo, ovviamente per quello che succede all'interno della giunta del Movimento 5 Stelle. In realtà ci occuperemo di altro, ci occuperemo di cronaca, perché c'è stato un nuovo stupro ai danni di una turista e ci sono zone della città che sono sostanzialmente fuori controllo e zone anche abbastanza centrali. Questo stupro è avvenuto a poche centinaia di metri dal Colosseo e cercheremo di fare un punto su questo. E poi ci occuperemo, ricorderete la vicenda, 5 cittadini macedoni espulsi, si trovavano a Gorizia, espulsi perché sospettati di essere jihadisti, ebbene sono stati rimandati nel loro paese, nel loro paese sono stati lasciati immediatamente liberi. Parleremo anche di questo, perché su questo fronte tra l'altro il procuratore di Trieste aveva espresso qualche preoccupazione. Tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della replica di Padoan alla Banca d'Italia sulla crescita, abbiamo parlato del premio Nobel per la fisica, sperando di essere riusciti a spiegarvi bene perché è stato assegnato ai 3 ricercatori britannici, abbiamo parlato del Papa in visita ad Amatrice, abbiamo parlato di Siria con il regime che avanza nel cuore di Aleppo. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia ed era un po' di tempo che in questa parte della trasmissione non andavamo a Roma. Di Roma ci siamo occupati molto nelle ultime settimane per ovvie ed evidenti questioni politiche. Adesso c'è una vicenda di cronaca che torna ad imporre la capitale al centro dell'attenzione, della vicenda di una donna australiana che è stata stuprata e picchiata a poche centinaia di metri dal Colosseo. Non è il solo caso di violenza sessuale avvenuta anche in zone centrali di Roma negli ultimi 18 mesi. C'è evidentemente in una parte di Roma un problema di sicurezza e siamo chiari su questo. La giunta e i problemi della giunta hanno poco o nulla a che fare, lo dico per prevenire eventuali messaggi di ascoltatori. Federica Angeli, cronista di Repubblica. Federica, ciao, buongiorno, benvenuta. Ciao, buongiorno. E anzi, bentornata ai nostri microfoni. Grazie. Sono 7 violenze nell'ultimo anno e mezzo. Sì, cominciano insomma a essere tante, soprattutto perché non avvengono come vorrebbe comunque una città degradata, lo standard nella periferia più estrema, quindi c'è nell'ombra, ma avviene proprio nel centro di Roma, possiamo dire. Quindi da Testaccio a Trastevere, che sono le zone più frequentate, sono quelle della Movida. Sì. Sembra di capire, Federica, per allargare il tema, allora di storie ne abbiamo raccontate, c'è questa donna australiana di 49 anni appunto che ha subito la violenza a 2 passi dal Colosseo, la vicenda della donna brasiliana di 48 anni stuprata in una specie di baracca alla stazione ferroviaria Tuscolana, c'è la vicenda che abbiamo raccontato di una studentessa studentessa violentata in un bagno di Roma. Però qua mi sembra che stia, tra la vicenda della donna brasiliana e di quella australiana, stia emergendo un problema di degrado complessivo di una fascia della città che è anche centrale e che, come dire, prescinde dal reato sessuale, ma è un problema di degrado. Esatto, ed esattamente questa è l'impostazione che poi abbiamo cercato di dare in quel pezzo. Io non più di 2 mesi fa feci un giro proprio nelle baraccopoli in pieno centro, nei quartieri della Roma Bene, e devo dire che purtroppo sono situazioni veramente da terzo mondo, gente che vive accampata in sottopassi, oppure lì a Colleoppio, vedi comunque senza tetto, e che non necessariamente stranieri, ma appunto anche italiani, c'è proprio un problema di povertà, capisci? Gente che parla romano, ma che abita sotto un albero con i panni stesi tra un albero e l'altro, con vista Colosseo, ed è impressionante tutto questo degrado sotto i palazzi del potere, si può dire, quindi sotto gli occhi. Raccontammo, tra l'altro, mi fa venire in mente, Federica, raccontammo giusto prima dell'estate e prima che si chiudesse questa trasmissione quello che era successo a Villa Ada, uno dei parchi più importanti di Roma, anzi uno dei due parchi più grandi di Roma, nel quale appunto c'era una vera e propria baraccopoli all'interno. Proprio baraccopoli alle spalle del comando generale dei carabinieri, davanti l'università, la LUIS, quindi ecco, quello che volevo far capire è che non è un discorso di periferie, di degrado, di periferie che vivono comunque nella miseria, cioè quello che cercavo di spiegare prima è appunto questo, che purtroppo tutto questo è al centro di Roma, è comunque sotto gli occhi di tutti. E nasconderlo è ipocrisia, naturalmente, e con questo non voglio, come hai specificato bene tu, accollare la responsabilità alla giunta sì, Raggi, perché poi... trovai scorretto la campagna elettorale, se ricordi bene, di anni e anni fa di Alemanno sulla tragedia della Regeni violentata, sì, la ricordiamo. Appunto, ecco, ai boda da un romeno ai bordi di una stazione isolata, e quindi lui fondò. Ecco, secondo me non è tanto un problema di giunta, se non rispetto a un degrado, a una povertà che naturalmente dipende sicuramente, sì, da come si destinano le risorse. Evidentemente da come viene gestita la città e anche da come viene gestita da un punto di vista della sicurezza, però appunto, come si dice, questo non è una questione della giunta, è evidentemente una questione di presenza dello Stato. Intanto io ti ringrazio, grazie a Federica Angeli, cronista di Repubblica, per essere stato con noi, per essere stata con noi. Segnalo all'ascoltatore che ce lo scrive, sì, ci sono molti stranieri tra le persone che hanno commesso questo tipo di delitti, ci sono anche molti italiani, è successo e le storie e le vicende lo raccontano. Saluto Stefano Giantin, buongiorno Stefano, benvenuto. Buongiorno Paolo, Belgrado. È un altro giornalista, un collaboratore da Belgrado per Il Piccolo di Trieste, dove abbiamo trovato oggi la storia che viene messa in apertura sul sito del Piccolo, del fatto da te firmata, che riguarda i macedoni che erano stati arrestati nei giorni scorsi a Ronco dei Legionari e espulsi in quanto sospettati di essere vicini allo jihadismo. Ebbene, abbiamo appreso da te oggi e dal tuo servizio che arrivati in Macedonia sono stati subito liberati, no? Sì, esatto, è una storia abbastanza controversa. Ieri per una verifica ho chiamato il Ministero degli Interni di Skopje e con molta sorpresa ho saputo che appena arrivati 5 macedoni con un volo all'Italia da Roma sono stati immediatamente rilasciati dalle autorità locali. Il Ministero mi ha spiegato che hanno avuto un colloquio informativo con i 5 e immediatamente hanno deciso che non rappresenterebbero un pericolo per la sicurezza nazionale in Macedonia e quindi sono lasciati andare liberamente. Quindi questa è stata la scoperta che abbiamo fatto ieri. È una scoperta abbastanza importante perché, insomma, la notizia in Italia della loro espulsione aveva avuto fatto profondo rumore, quindi... un discreto eco. Tra l'altro, io, se non ricordo male, proprio in quei giorni, nei giorni di quell'espulsione, ci fu il procuratore di Trieste che disse attenzione, perché insomma noi adesso li espelliamo e speriamo che non ci ritroviamo in Italia tra poco. A questo punto il rischio potrebbe essere in gioco, o come dire, o i controlli che vengono fatti in questo periodo alla frontiera sono efficaci. E questo è da vedere, perché secondo mie fonti locali in Macedonia, mi è parso di capire che le autorità locali non ritengono queste persone pericolose. Quindi per ora sono sotto osservazione, mettiamola così fra virgolette, però sono liberi, insomma, di spostarsi, di uscire dal paese. Loro adesso sono tornati nel loro villaggio d'origine, che è nel nord-ovest della Macedonia, e però possono decidere tranquillamente di tornare in Italia, dove hanno anche un'attività imprenditoriale, lavoro nell'edilizia e anche una casa, quindi insomma non è escluso. Ieri, sempre fonti investigative hanno spiegato comunque all'ANSA che se dovessero tentare di tornare in Italia potrebbero essere comunque riespulsi di nuovo. Stefano, mi sembra di aver capito un'ultima cosa che ti voglio chiedere, che riguarda il problema più generale di questa legge che è stata varata per l'espulsione dei presunti jihadisti o delle persone vicine allo jihadismo, che là ci sia un tema di quello che viene definito anche nel tuo pezzo un parametro italiano. Ne abbiamo discusso molto anche nei mesi scorsi, quando c'è stato qualcuno sospettato di jihadismo e poi espulso, e poi ti ritrovavi che in realtà magari era uno che da 20 anni faceva il muratore, un bravo ragazzo, eccetera eccetera, ha messo mi piace ad un video su YouTube ed è diventato improvvisamente il potenziale jihadista. Mi sembra di aver capito che le autorità macedoni abbiano fatto una valutazione di questo tipo, cioè hanno detto il parametro è tutto italiano, noi non lo applichiamo. Sì, più che altro, da quanto so, le autorità macedoni non hanno ricevuto abbastanza informazioni dall'Italia per valutare queste persone pericolose. Va detto che in tutti i Balcani, Macedonia inclusa, il problema dello jihadismo e delle persone che reclutano nuove persone da spedire in Siria e Iraq è molto sentito. Insomma, abbiamo 300 jihadisti dalla Bosnia, un centinaio dal Kosovo, dello stesso numero della Macedonia. Quindi io non penso che le autorità macedoni siano poco consce del pericolo o insomma abbiano lo sottovalutino. Forse possiamo dire che magari le nostre autorità non sono state abbastanza chiare nello spiegare il pericolo che queste persone rappresenterebbero. Ti ringrazio, grazie a Stefano Giantin, collaboratore da Belgrado per Il Piccolo di Trieste. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi nel nostro giro per l'Italia andremo a Biella, dove è stata varata un'ordinanza abbastanza dura dal sindaco sulle videolotterie e i commercianti stanno iniziando a chiedere i danni. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. In apertura, tra i nostri titoli, una notizia appena arrivata: sarebbe stato identificato l'aggressore della donna australiana di 49 anni che è stata stuprata nel parco di Colle Opio a Roma, vicenda della quale vi abbiamo parlato poco fa. Si tratterebbe di un cittadino dell'est, al momento è ricercato. Padoan replica la Banca d'Italia sulla crescita: l'1% è ambizioso ma realizzabile, deficit in linea con il consolidamento dei conti, aggiunge. Il premio Nobel per la fisica va a 3 scienziati britannici impegnati nello studio della materia, le loro ricerche alla base, tra l'altro, dei superconduttori. Il Papa in visita a sorpresa ad Amatrice: vi sono vicino e prego per voi, dice alla popolazione colpita dal sisma. La borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, proseguiamo il nostro giro per l'Italia e andiamo a Biella, dove si sta giocando uno dei fronti giudiziari, per così dire, della battaglia che alcuni comuni stanno conducendo contro le videolotterie e i videopoker. A Biella era stato varato prima dell'estate un regolamento molto duro, direi draconiano, che prevedeva sole 5 ore di apertura al giorno. Poi questa apertura è stata estesa, però succede che i commercianti hanno fatto qualche conto e hanno deciso che il comune li deve risarcire per questi orari di chiusura. Francesca Salivotti, assessore alle attività sociali e assistenziali, pari opportunità, disagio sociale e immagino molte altre deleghe del comune di Biella, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, eccoci qua. Vi chiedono innanzitutto, come punto di partenza, 50.000 euro. E poi si rischia di andare oltre, perché alcuni dicono: io qua con solo questa chiusura per questo breve periodo di tempo, questo periodo estivo per così dire, ci ho perso 40.000 euro, altri di meno, altri ne hanno persi 250 euro, non 250.000, racconta la stampa di oggi, però insomma rischia di essere pesante per il bilancio comunale, no? Beh, ovviamente era uno dei rischi che noi avevamo immaginato facendo questa ordinanza, però l'emanazione di un regolamento era uno degli obiettivi che noi avevamo in legislatura. C'è poi venuta in soccorso una legge regionale che la Regione Piemonte ha varato, e quindi noi da un regolamento abbiamo deciso di limitarci ad una sola ordinanza che ha regolamentato gli orari. È stato presentato questo ricorso al TAR, l'abbiamo modificato perché erano state presentate alcune critiche al ricorso, e quindi noi proseguiremo su questa strada. I territori, quello di Biella così come altri territori di altre amministrazioni, vedono gli effetti sulle famiglie, sulle persone, e sono drammatici. Io comprendo le ragioni dei commercianti, le ragioni dei proprietari delle sale slot, ma dal mio punto di vista... Tra l'altro, mi scusi, sì, giusto per rimanere sul tema puramente pecuniario, sì, dal punto di vista dei servizi sociali, questa cosa vi costa, immagino? Sì, ci costa, perché sono sempre in aumento il numero di persone, di famiglie che si trovano in situazioni economicamente drammatiche, pur avendo un lavoro, pur avendo un reddito, che arrivano a non riuscire a pagare l'affitto, a non riuscire a pagare il mutuo della casa e a riuscire a non sostentarsi, con crisi familiari drammatiche che coinvolgono anche i minori. Quindi questi casi sono sempre di più, è sempre più difficile affrontarli, perché anche se noi lavoriamo in stretto contatto con il Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL, è una dipendenza nuova, tra virgolette, rispetto alle quali è veramente difficile incidere anche con una presa in carico multipla e congiunta con più servizi. Allora, gli stop al momento sono dalle 7 alle 9, quindi la mattina presto, diciamo così, insomma, esatto, no? Prima a ridosso del momento nel quale si va al lavoro, dalle 12 alle 16, quindi all'ora di pranzo, esatto, e poi dalle 23 all'una di notte, esatto, no? Sono gli stop che avete messo adesso. Inizialmente avevate previsto addirittura 5 ore. In realtà erano 5 ore di chiusura, noi avevamo previsto dalle 12 alle 17 la chiusura, per tutto il resto della giornata invece era possibile l'apertura, ma sì, l'ordinanza era costruita in un modo tale per cui la dicitura era: l'apertura è concessa dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 24, intendendo sì, che un esercizio che ipoteticamente potesse essere aperto 24 ore al giorno dovesse chiudere un monte ore eccessivo, sì, quindi abbiamo rivisto l'ordinanza. Cioè l'avevate scritta male? Detta brutalmente, l'avete scritta male, abbiamo specificato. Sono complessivamente le ore di chiusura al momento 8. Sono 8 ore di chiusura. Ma avete provato a fare un accordo con i commercianti, a parlarci un attimo, a dire: guardate, troviamo il modo di risarcirvi, perché in questi casi spesso funziona molto più la premialità che uno concede nei sì, confronti di comportamenti che considera virtuosi rispetto alla sanzione, no? O al danno economico. Assolutamente, però le cifre che lei ha ricordato prima fanno benissimo capire come una premialità deve essere incisiva per essere tale, e quindi il comune non ha le risorse finanziarie per sopperire a quelle che possono essere le eventuali perdite e quindi incentivare realmente i commercianti. In realtà ci sono commercianti a Biella che hanno scelto volontariamente, prima dell'emanazione dell'ordinanza, di pregiarsi di essere locali slot free, e quindi è possibile anche farlo quando non c'è una premialità. Udienza il 25 di ottobre? Sì. Il 25 di ottobre ci sarà l'udienza e vedremo dunque che cosa decideranno i giudici. E non c'è possibilità addirittura che vi blocchino il regolamento o l'ordinanza? Se ce la bloccheranno ci rimetteremo a quella che è ovviamente il giudizio del TAR. C'è da dire che le fasce orarie che noi abbiamo individuato sono state pensate anche insieme a un tavolo contro il gioco d'azzardo patologico di cui fa parte l'ASL, e sono veramente limitate a quelle che noi abbiamo individuato come essere le fasce più sensibili, sì, quelle prima dell'ingresso al lavoro, dopo l'uscita da scuola. Anche, e le abbiamo spezzettate per interrompere quelle sedute molto lunghe che spesso il giocatore d'azzardo patologico compie, magari senza poi rientrare al lavoro, perché succede anche questo. Tra l'altro sono più o meno le stesse fasce, i nostri ascoltatori, quelli più fedeli evidentemente di Effetto Giorno lo ricorderanno, che che ha stabilito il comune di Bergamo. Ne abbiamo parlato col sindaco Giorgio Gori, quindi sarà interessante quello che succederà il 25 ottobre, perché potrebbe avere impatto anche evidentemente su altre città e anche più grandi di Biella. Grazie assessore, le auguro un buon lavoro, una buona giornata. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.